Vediamo se riesco questa sera finalmente a dormire. L'altra sera le zanzare me ne hanno fatto di tutti i colori. Vedere! Eccole di nuovo, arrivano come aeroplani. Sfrecciano sicure come samurai tra le mie mani. Pronte all'arakiri per succhiare tutto il mio sangue. Stavolta non mi fregate, venite, brava gente. Arrivano da tutte le parti, sono organizzate. Sembrano l'armata Brancaleone, saranno drogate. La mia prima linea è stata completamente annientata. Ora provo con lo spray, mannaggia, ma una bufola, questa bombola si è bloccata. Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai. Ora faccio il finto morto, così vediamo se mi lasciano un po' stare. Ma che sono di più e sono tutte per la guerra, pronte a sparare. Partono da chissà dove, me le trovo dentro al naso. Vengono con i loro chiodi a torturare il mio viso. Adesso sanno pure che non posso nemmeno aprire bocca. Altrimenti ci fanno il nido con le uova sulla mia faccia. Stanno conquistando terreno da tutte le parti. Assaltano ogni treno, adesso sparano agli occhi. Mi sento come Gramsci isolato, un Pertini senza pipa. Solo contro queste bestiole, senza scudo, senza meta, senza scudo, senza meta, senza scudo. Ai ai ai. La notte sta finendo, finalmente finirà questo massacro. Sono morto di sonno, ne approfitto per prendere fiato. Stanno ridendo come matte dietro le mie spalle. Preparano l'attacco finale sulla mia pelle. Vabbè, è giunto il momento di cambiare metodo. Vi incollo la zanzariera, a voi e a tutto il vostro popolo. Godo a vedere, godo le vostre facce illuminate. Incollate alle pareti a vuoto le vostre frecce avvelenate. Non sarò più preso in ostaggio dai vostri siluri. Spero che i vostri progetti, i vostri disegni, i vostri sogni, i vostri veleni si infrangano sui muri. Godo a vedere, godo le vostre facce illuminate. Incollate alle pareti a vuoto le vostre frecce avvelenate. Non sarò più preso in ostaggio dai vostri siluri. Spero che i vostri progetti, i vostri disegni, i vostri sogni, i vostri veleni si infrangano sui muri, sui muri, sui muri.